edizione. Ancora buona giornata da Anna Migliorati, Viola Bottoni e Peter Bescapè in regia per cominciare anche questa mattina con prima edizione. Strage nel fango, titola questa mattina il Secolo XIX, il quotidiano di Genova. Cinque Terre, Lunigiana, sono davvero in ginocchio. La pioggia d'autunno ha lasciato fango e macerie. Allora, cerchiamo di capire subito questa mattina qual è la situazione qui e non solo, perché il maltempo è già in arrivo anche al sud. Io saluto l'ingegnere Paola Pagliari, responsabile del centro funzionale della protezione civile, che è già al lavoro. Buongiorno a tutti. Allora, questa mattina com'è la situazione? Allora, la situazione questa mattina vede dal punto di vista meteorologico una situazione tranquilla, per fortuna, in Liguria, dove si sta lavorando per assistere la popolazione, per verificare qual è lo stato di rischio residuo che questo evento ha determinato nel territorio. Questo appunto per prepararsi per eventuali condizioni meteorologiche non così favorevoli che ci possono essere nei prossimi giorni, naturalmente. Per cui ci sono situazioni di frane, di colate di fango che determinano comunque un pericolo, e quindi su questo si sta lavorando per oltre che per assistere la popolazione, per ridurre questo rischio e prepararsi per i prossimi giorni. Per i prossimi giorni, per fortuna il sud in queste ore è interessato dal maltempo, le condizioni non sono state così gravose, così come ci attendavamo, però per tutta la mattinata di oggi ci attendiamo. Quali sono le zone dove oggi si attende? Oh, per fortuna non tutti i giorni ci attendiamo. Speriamo proprio di no, insomma, che passi e poi si penserà al dopo, come però diceva prima. Reggio Calabria, nella zona della Calabria meridionale, nella zona della Sardegna, erano le zone attenzionate durante la notte, perché era lì che si attendevano le maggiori concentrazioni di pioggia. Sì. Per quanto riguarda la Liguria, per le prossime ore almeno il tempo vi renderà la situazione, l'intervento un po' più semplice? Nell'immediato sì, certo, è autunno, per cui il tempo che riteniamo di avere a disposizione è sempre comunque troppo poco per andare a mettere in sicurezza o in qualche maniera a ridurre il rischio in una zona così profondamente colpita. Quante persone avete al lavoro? Al lavoro c'è oltre ovviamente c'è un gruppo, un team che è andato su a supportare l'attività della regione, della provincia e della prefettura, anche con il capo dipartimento che si è recato ieri, hanno fatto il punto della situazione e ci sono dei colleghi che stanno supportando. E poi ovviamente tutto il personale sul luogo. Grazie, continueremo naturalmente ad aggiornarvi per tutta la giornata. Grazie Paola Pagliara, responsabile del centro funzionale della protezione civile. Sentiamo com'è la situazione sulle strade, poi torniamo con i giornali in edicola. Prima edizione. Ed eccoli sulle prime pagine dei quotidiani. Strage nel fango, dicevamo, la pagina di apertura del Secolo XIX, il Corriere della Sera, coi corpi nel fiume di fango, un intero paese spazzato via. Immagini le trovate sulle prime pagine oggi di tutti i quotidiani di quanto accaduto in Liguria e Toscana. Torneremo a parlarne tra poco, perché c'è anche un'altra notizia che in realtà occupa gran parte e molte aperture dei quotidiani, ed è l'accordo, dicevamo, tutto in una notte a Bruxelles. I giornali italiani dell'accordo sul fronte europeo hanno poco, perché le notizie sono arrivate all'alba. C'è molto invece della parte italiana del vertice di Bruxelles, vale a dire tutto sommato il sì alla lettera italiana arrivata ieri. Primi sì dall'Europa al piano italiano, il Corriere della Sera, la lettera di Berlusconi, licenziamenti più facili e in pensione a 67 anni. Taglio centrale del Corriere della Sera: il governo va sotto due volte, Rossi, dico io quando si vota. La Repubblica, Berlusconi, licenziamenti più facili, sì con riserva dall'Unione Europea al piano anticrisi, in pensione a 67 anni. Aggiungiamo appunto che poi all'alba è arrivato anche l'accordo sul fronte europeo e ne parleremo più avanti. La Stampa, licenziamenti più facili per l'Unione Europea, possibile un'accelerazione in caso di crisi, tutti in pensione a 67 anni ma solo dal 2026. E retroscena della Stampa, Tremonti fuori gioco, non firma la lettera. Il Sole 24 Ore, è più facile licenziare piano dismissioni, positivo il primo giudizio europeo. Sulla prima pagina del Sole 24 Ore trovate anche un appello del Quirinale. La firma è quella del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Chi governa deve saper prendere decisioni impopolari. Così l'appello del Quirinale, che parla e molto di Europa. Dopo più di mezzo secolo di unità e di continui progressi, parole di Giorgio Napolitano questa mattina sul Corriere della Sera, occorre ragionare ora in un rapporto chiaro e convincente con i cittadini sulla crisi che ha investito l'Eurozona e offrire risposte persuasive. Cioè, in sostanza, da rendere chiaro qual è la posta in gioco per il nostro continente. L'appello del Quirinale sul Sole 24 Ore. Sul Sole 24 Ore trovate anche il pensionometro a questo punto, i conteggi per la vecchiaia a 67 anni. Ecco come si calcola l'età per il ritiro. Pensioni e lavoro, sì dell'Europa, anche il titolo del Messaggero, che dedica attenzione anche ad un'altra polemica biennale. La cultura non è uno spot, bocciato il candidato del ministro ieri, la bagarre per il nome di Giulio Malgara. Queste le notizie sui giornali, ma torniamo ancora a parlare di maltempo e di alluvione. Perché? Perché la situazione l'abbiamo appena sentita, la Protezione Civile è già al lavoro, li abbiamo sentiti poco fa in diretta. Ci sono però anche polemiche, anche problemi economici, una situazione molto difficile. Laura Bettini. Buongiorno, sì Anna, buongiorno agli ascoltatori. Appunto, il bilancio è gravissimo di quello che riguarda il bilancio delle vittime. Abbiamo detto sono 6 i morti, ci sono però ancora 10 dispersi, quindi insomma la situazione potrebbe diventare ancora più grave. C'è il problema del delle strade, delle autostrade, c'è stata la chiusura dell'autostrada 12, della A15, ferma anche la ferrovia Parma-La Spezia, poi riaperta, e per questo ovviamente rinviamo gli ascoltatori ai nostri appuntamenti con le strade in diretta. Ci sono ancora centinaia e centinaia di persone evacuate a Monterosso, Vernazza, nelle Cinque Terre, ma anche ad Aulla, provincia di Massa Carrara. Ci sono centinaia di persone che hanno trascorso ancora un giorno senza acqua potabile, senza luce, senza riscaldamento. Insomma, tutte queste situazioni hanno fatto sì che la Toscana e la Liguria abbiano richiesto lo stato di emergenza. La prima ha stanziato già 2 milioni di euro, la Liguria ha chiesto di poter utilizzare ora i 45 milioni che erano stati stanziati dal governo per l'alluvione dello scorso anno. In attesa però di risposte ci sono anche molte perplessità, e queste sono quelle che ha espresso il governatore della Liguria Burlando ieri al microfono di Francesco Maesano. È una situazione pesantissima, perché abbiamo l'autostrada, la strada statale, la ferrovia interrotta ancora per qualche giorno, e poi questi due comuni costieri assolutamente impossibilitati a vivere, perché il problema è che nell'ultimo decreto del milleproroghe si è abolito il fondo di protezione civile, si è ipotizzato di fare un fondo diverso con un'assicurazione piuttosto che quella sia sulla benzina. E quindi adesso non abbiamo più il vecchio fondo, non c'è ancora il nuovo fondo, e questo è un problema che il governo dovrà affrontare nelle prossime ore, spero trovando una soluzione, perché qui siamo di fronte a una vicenda molto complicata. Insomma, non c'è il fondo della protezione civile, così Burlando. Avete sentito la voce rotta anche dall'emozione, perché era appena rientrato da una visita alle zone colpite dal disastro, una visita che aveva appena compiuto via mare, perché via terra appunto non si può accedere alle Cinque Terre, a tutta quell'area circostante. Ieri a La Spezia c'è stato il vertice tra il capo della protezione civile Franco Gabrielli e il presidente appunto della regione Liguria Burlando, con tutti gli amministratori locali, si è cercato di capire quali sono le esigenze della popolazione. Un centinaio di militari arriveranno oggi in Liguria e il vice ministro delle infrastrutture Castelli sarà alla Spezia per fare il punto sulle condizioni della viabilità e dei collegamenti nella zona. Come abbiamo detto, le perturbazioni si sposteranno oggi a sud, previste piogge sparse in particolare su Sicilia e Campania. Ovviamente non ci si augura una situazione drammatica come quella della Liguria, ma comunque ci vuole assai prudenza da parte della popolazione. Grazie a Laura Bettini. Continueremo a parlarne, le perturbazioni, dicevamo, si stanno spostando anche al sud. Parliamo anche di un altro argomento però che riguarda la giornata di oggi. Alle 8 in punto, sono le 6:26, alle 8 in punto oggi partirà un tremolo un po' speciale dalla stazione Vaticana, arriverà alle 9:45 alla stazione di Assisi. 300 rappresentanti di tutte le fedi mondiali ricordano l'incontro di 25 anni fa voluto da Giovanni Paolo II. Buongiorno anche a Katia Caramelli. Buongiorno Anna, buona giornata agli ascoltatori. 25 anni dopo l'incontro voluto da Papa Giovanni Paolo II, era il 1986, Benedetto XVI oggi riunirà nuovamente ad Assisi i responsabili delle religioni nel mondo per una giornata di riflessione e preghiera per la pace e la giustizia. Responsabili che raggiungeranno in treno la città del Poverello proprio insieme al Papa. Gli incontri di Assisi hanno segnato una vera e propria svolta nei rapporti tra le religioni e ne abbiamo parlato con il vescovo di Assisi, Monsignor Domenico Sorrentino. Sentiamo cosa ci ha detto. Il concilio aveva dato l'orizzonte generale, la Santa Sede da allora aveva creato anche un organismo apposito per il dialogo interreligioso, ma un momento di così alta levatura e anche di tale ampiezza, ecco, nell'incontro non c'era mai stato. Non era in realtà di per sé un momento di dialogo, ma un momento di preghiera. Si ricorderà che il motivo dell'incontro fu sostanzialmente la preghiera per la pace, ma ebbe sicuramente anche l'effetto di far incontrare gomito a gomito gli esponenti delle principali religioni mondiali. Quello che avvenne 25 anni fa ha dato un impulso molto forte al dialogo. E da allora è accaduto un po' di tutto, ci sono state le Torri Gemelle, l'Afghanistan, l'Iraq, tanto è vero che poi Giovanni Paolo II volle tornare ad Assisi, quindi Assisi, lo spirito di Assisi è ancora più urgente oggi. Direi proprio di sì, è il motivo per cui il Papa oggi convoca di nuovo non soltanto i credenti di tutte le religioni, ma in qualche modo anche i non credenti aperti al dialogo, perché la questione della pace è una questione ancora tutta sul tappeto. Qual è a suo avviso il terreno su cui le religioni, al di là poi delle differenze, delle prese di posizione, devono confrontarsi? Intanto le religioni hanno come fondo comune la percezione del mistero e dunque il tema della trascendenza resta comunque il nostro punto di incontro. Ma detto questo, che è fondamento comune, ecco, ci sono tanti ambiti sui quali siamo costretti ad incontrarci, da quella della famiglia, della salvaguardia del creato, della giustizia sociale. C'è una parte della Chiesa e non solo che però teme il rischio di confusione e sincretismo. C'è questo rischio? Direi proprio di no. A nessuno di noi che partecipa viene chiesto di mettere in parentesi, per così dire, la propria fede. Noi cristiani siamo in questo dialogo proprio perché siamo cristiani. Prima edizione. È il momento di Italia in controluce alle 6:37 minuti, seconda parte della nostra inchiesta sul dopo alluvione un anno fa a Vicenza. Italia in controluce. È il 27 ottobre, vi parla Daniele Biacchessi. Oggi vi raccontiamo la storia di padre Fausto Tentorio, il missionario italiano ucciso nelle Filippine, e con questo racconto di Katia Caramelli facciamo anche il punto sui missionari italiani nel mondo. aveva appena finito di celebrare la messa padre Fausto Tentorio quando è stato avvicinato da uno scooter e colpito a morte da killer a soldati su commissione. Questo almeno sostiene ora la polizia. Da oltre 30 anni sull'isola di Mindanao, Tentorio, 60 anni di Lecco, infatti era amatissimo dalla sua gente, ma anche odiato perché Tentorio era quello che si definisce un prete scomodo. Già nel 2003, infatti, per la sua attività al fianco dei più deboli tra i deboli, gli indigeni, contro gli espropri delle loro terre, era scampato ad un attentato. Padre Giulio Mariani, missionario di Zamboanga, lo conosceva bene. Il suo lavoro era missione tra i Lumad, i tribal filippino, che sono i poveri più discriminati delle Filippine, i primi abitanti, indigenous people. Era un padre per loro, un fratello, un alleato in tutte le loro attività, si è molto immedesimato con loro. Noi affettivamente lo chiamavamo il tribale, perché appunto era diventato in diversi modi uno di loro, una persona che non dava fastidio a nessuno. Però forse a qualcuno ha dato fastidio, perché come mai lo hanno ucciso? Come se lo spiega? Questo non lo sappiamo, però è chiaro che il lavoro con i tribali che stanno lottando per i loro terreni, nel momento in cui le miniere stanno diventando di moda da quelle parti, e naturalmente il lavoro delle miniere tocca la realtà delle terre di queste tribù che considerano la terra qualcosa di sacro, e quindi naturalmente scoppia quella lotta, no, tra di loro. Una vita totalmente dedicata agli altri e spesso messa in pericolo, quella dei missionari sparsi per il mondo. Un esercito di quasi 10.000 inviati dall'Asia all'America Latina, dall'Africa all'Oceania, passando per l'Europa, con compiti molto diversi dal passato e che tuttavia è in crisi. Se nei primi anni 90, infatti ancora sulle orme del Concilio Vaticano II, aveva raggiunto il record delle 20.000 presenze, un trend in ascesa che durava dal 1934, alla fine del 2008 il numero era sceso a poco più di 10.000 unità. Un calo tuttavia bilanciato dalla crescita costante del numero di missionari laici. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Italia in controluce, torniamo oggi 13.30 a Radio 24. Con prima edizione torniamo invece a Bruxelles. Dicevamo, dopo il giudizio sull'Italia, nella notte si è discusso a lunga 10 ore di riunione e alla fine, all'alba, un accordo è arrivato. È arrivato e comunicato peraltro in maniera un po' particolare via Twitter, Valeria De Rosa. Sì, diciamo che via Twitter sono arrivate delle comunicazioni poi successive al vertice di quanto accaduto. Poi vi racconteremo anche di una polemica tra la Merkel e Berlusconi, però partiamo da quelli che sono stati i risultati, perché fino a ieri erano davvero risultati insperati, quasi nessuno avrebbe scommesso su quanto poi è stato portato a casa. Sono stati sciolti tutti i nodi, e allora partiamo proprio dal principio, dalle banche, ricapitalizzazione, questo era stato già deciso, però intanto saranno 90 le banche da ricapitalizzare e poi dovranno essere trovati 106 miliardi di euro entro giugno prossimo. Per le banche italiane si tratta di poco meno di 15 miliardi e tutti questi sforzi serviranno per portare il coefficiente patrimoniale al 9%, attualmente è al 7%. Per rifinanziarsi le banche dovranno prima cercare capitali propri, anche attraverso ristrutturazioni, cartolarizzazioni, poi dovranno chiedere l'intervento degli stati e poi in ultima istanza potranno far riferimento al fondo salva stati. Anche questo capitolo è importantissimo, perché ormai il fondo è diventato uno strumento indispensabile per la situazione creatasi in Europa. Potrà raggiungere fino ai 1.000 miliardi e lo farà attraverso due possibilità: o vendendo le assicurazioni sui titoli dei paesi europei, oppure con uno strumento, un particolare strumento che dovrà attirare fondi da investitori esterni, come ad esempio la Cina, di cui abbiamo parlato anche ieri, quindi l'intervento della Cina, oppure attraverso istituzioni come il Fondo Monetario Internazionale, che ha già dato la sua disponibilità. Le perdite delle banche, anche qui c'era un accordo non ancora del tutto definito: le banche arriveranno fino al 50% di taglio del valore nominale dei titoli della Grecia che hanno in portafoglio, questo per permettere alla Grecia minaccia di arrivare ad avere un debito sostenibile, il 120% del PIL nel 2020. Tutto in una notte, dicevamo prima, tutto in una notte. È stato davvero difficile, infatti le 10 ore di vertice lo dimostrano sicuramente. E questa mattina abbiamo davvero molto da raccontarvi. Resta un problema diplomatico per quanto resta ci riguarda. Resta una coda diplomatica di problema, il problema è quello di Binismaghi, lo sappiamo, non si è ancora dimesso dal board della Banca Centrale Europea, Sarkozy resta molto freddo su tutta questa vicenda, molto stizzito potremmo anche dire, e il fatto che il Presidente del Consiglio a porta abbia fatto un appello, diciamo pubblico, a Binismaghi non ha certo aiutato le cose, perché Sarkozy avrebbe detto in serata non penso che la TV sia il modo migliore per far passare il messaggio. Dobbiamo dire che anche la cancelliera si è risentita un po' delle scuse raccontate in TV da Berlusconi, lo ha fatto attraverso il suo portavoce che via Twitter ha scritto: non ci sono state scuse da parte della cancelliera perché non c'era niente di cui scusarsi. E grazie a Valeria De Rosa. Niente di cui scusarsi, molto invece di cui ancora parlare, e ne parleremo ancora nel corso della mattina. Saluto però il mio prossimo ospite, che è in viaggio tra l'altro tra Genova e La Spezia, professor Franco Siccardi, buongiorno. Buongiorno a lei. Docente all'Università di Genova, tra gli animatori del Centro Interuniversitario di Ricerca in Monitoraggio Ambientale. Parliamo ovviamente ancora di quel che è successo nelle Cinque Terre. Noi ci siamo sentiti anche ieri, lei mi diceva il punto primo di quel che è successo è che nelle Cinque Terre, in Liguria, tutto quel che c'è non ci sta. Sta qui il problema, sì, al di là della pioggia? Cioè la pioggia c'è sempre stata, a parte le versioni recenti in cui si chiamano bombe d'acqua, le precipitazioni come quelle dell'altro giorno ci sono sempre state, solo che quando non c'era la televisione i contadini andavano in mare senza che nessuno lo sapesse, adesso lo sappiamo tutti e lo conosciamo. L'altra cosa che è vera e che non possiamo assolutamente trascurare è che siamo troppi adesso in Liguria, il turismo ha riempito di case. Io sono addolorato per i morti e per i dispersi, è un numero così alto che quasi raggiunge quello dell'alluvione di Genova del 1970. E mi dispiace anche che di dover dire le cose che sto dicendo, ma la quantità di trasformazioni territoriali che il turismo ha condotto in questi spazi, a partire dalla metà del secolo scorso, è terribile. Noi abbiamo tutti i lì pieni di sovrappassi, coperture, passerelle, abitazioni, e ogni tanto qualcuno di queste abitazioni viene spazzata via dalle frane o dalle inondazioni. Sono ormai molti anni che mi occupo di queste cose per tutta l'Italia, e la Liguria è uno dei territori più esposti. Prima edizione. Professor Franco Siccardi, il consumo di suolo in Liguria ha coperto il suo territorio di cemento per il 45% del suo territorio libero. I dati Istat peraltro si riferiscono al 2005, quindi dobbiamo aggiungerci ancora qualcosa. La media nazionale è del 17%. Sta tutto qui il problema? Certo che sta qui. Mi stupisco che ci siano così poche vittime, lei mi diceva ieri. No, non così poche. Oggi ne sono Oggi sono più tante. Sono tante, le dicevo, sono quasi quante quelle della grande alluvione del 1970. Ma la soluzione qual è a questo punto? La Liguria è costruita ed è costruita. Non ci sono soluzioni. Ma che non ci fossero soluzioni lo sappiamo ormai da 30 anni, quando è stata costruita la protezione civile. Perché come si fa a abbattere quello che non deve essere? Non si può. Noi abbiamo ancora a Genova la casa di Via Giotto, che soltanto l'anno scorso ha dato luogo di nuovo a un'inondazione nello stesso posto in cui la diede nel passato. E l'unica cosa è cercare di ridurre al minimo le vittime, e devo dire che nonostante che io soffra per il numero così elevato, non è stato così grande come avrebbe potuto essere. Ma lei lo ha sentito, quel sacerdote che ormai ha imparato la lezione della protezione civile, ha portato i bambini su nel secondo piano. Questi ormai sono comportamenti che dovrebbero essere comportamenti usuali della popolazione quando ci sono le allerte come quelle che sono state date correttamente 3 giorni fa in Liguria. E forse ascoltate un po' di più. Grazie al professor Franco Siccardi, docente all'Università di Genova, l'avete sentito, da tempo impegnato nel monitoraggio ambientale, lo risentiremo magari nel corso della giornata. Grazie per essere stato con noi. Grazie a lei. Nel frattempo vi aggiungo che intanto sono riprese, erano state interrotte nella notte, le ricerche dei dispersi. Alessandro Milan, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Hai sentito, questa è la Liguria, c'è anche molto d'altro però. E sì, sul giornale ovviamente le foto soprattutto sono impressionanti, che vengono proposte da tutti i quotidiani, davvero incredibili di devastazione. Ovviamente c'è anche altro sui giornali, per esempio in tempo di crisi, visto che arrivano i licenziamenti più facili, questo almeno ha annunciato il Premier Berlusconi nella lettera all'Unione Europea, invece a Palazzo Chigi si assume. Il Corriere della Sera fa sapere che ci sono 33 nuove persone in posizione dirigenziale e si sale quindi a un esercito di 4.600 dipendenti a Palazzo Chigi. Tanto per dire, in Gran Bretagna la stessa, diciamo, autorità ha circa 200 collaboratori a Downing Street. 200. Noi 4.600. Ne ballano 4.400. Ne mancavano 33. Ne mancavano 33. Cifra tonda, insomma. Ne mancavano 33, ma arriveranno presto assunti in ruolo dirigenziale. E questo ci rende più tranquilli. Grazie Alessandro Milan anche questa mattina. Da Anna Migliorati ancora buona giornata. Tra pochissimo ci risentiamo con gli aggiornamenti ancora GR24.